Deborah, metti a posto le antenne perché sembra che chiami da Marte. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Volevo avvisare che sono riatterrata sulla Terra da Marte, e quindi sono regolarmente in onda stamattina. Ma che piacere sentirti, Deborah. Come stai? Tutto Ciao. Bene? Tutto, il viaggio tutto bene, da grazie. Marte? Tutto a posto? Sì. Tutto ok. Viaggio da Marte liscio, benissimo. Allora qui ti accolgono in studio con un grande applauso. Baba Elisabetta Fusconi dalla Svizzera con amore e oggi badante sul territorio, attenta alle mie esigenze, alla mia persona, alla mia povera persona. Grazie Baba. E poi dall'altra parte in regia Filippo Aureggi, austero e severo, ma pronto. Perché abbiamo messo i Litfiba? Perché qua c'è questa iniziativa di Feder Distribuzione, che è l'organizzazione che raduna tutte le insegne della grande distribuzione, e le aziende che sono associate a questo gruppo appunto hanno fatto sapere che hanno continuato a vendere le mascherine al prezzo fissato di 50 centesimi più IVA, cioè con un prezzo al pubblico di 61 centesimi di euro, ancora per tutta la scorsa settimana, fino ad aver quasi esaurito le scorte di circa 9 milioni di pezzi ancora disponibili al 26 aprile scorso, e adesso si stanno riapprovvigionando grazie all'accordo con il commissario straordinario per l'emergenza Arcuri. Allora, al momento le mascherine sono in vendita presso Brico Center, Brico Man, Carrefour, Esselunga, tutti i gruppi e le insegne del gruppo Selex, anche se non in tutti i punti vendita. E però entro qualche giorno Feder Distribuzione appunto assicura che sarà garantita la copertura di 8.000 punti vendita, per cui le troveremo, ma da quello che capisco, 50 centesimi più IVA, quindi 61 centesimi complessivi, Mauro. Sì, 61 centesimi, ma su questo, se mi permetti, vorrei fare un brevissimo editoriale. Perché ti ieri... prego, ma se no sembra che lo faccio sempre io, ma dai, è anche un po' con il ghigno malefico, è un po' volta... anche puntuto, sì, o no? È un po' puntuto, perché allora, perché? Tu sai che ieri è stata diffusa la circolare 11/E dall'Agenzia delle Entrate, che dice che ci danno la detrazione, cioè ci fanno uno sconticino sull'IRPEF per quello che paghiamo per le mascherine, e se è una buona notizia, giusto? Ecco, devi sapere che però, e non è tutta colpa dell'Agenzia delle Entrate, attenzione, perché l'Agenzia delle Entrate ha dato disposizioni sulla base di quello che dice la legge, quindi altro non poteva fare. Allora, precisiamo questo, vale la detrazione, cioè lo sconto IRPEF, solo e soltanto sulle chirurgiche, cioè quelle da 61 centesimi che stai dicendo tu, fanno più o meno 9 centesimi di sconto IRPEF per mascherina. Se ne compri 100 sono ben 9 euro di risparmio IRPEF su 100 mascherine, tu capirai. Non è purtroppo invece agevolato, non ha nessuna detrazione, l'acquisto dei DPI, cioè quelle mascherine FFP2, 3, eccetera, eccetera, quelle che insomma costano 5, 6, 7 euro oppure di più qualche volta. Ecco, quelle lì niente sconto. Invece sulle chirurgiche, che peraltro si fa fatica a trovare, adesso speriamo che la Feder Distribuzione in qualche modo ponga, esatto, un rimedio, ecco, su quelle lì ben 9 centesimi di sconto. Mi raccomando, come diceva la canzone di Enzo Iannacci, non se li beva questi 9 centesimi. Insomma, abbiamo capito che non possiamo editoriale. Fare bravo, bravo. Allora, noi possiamo fare sicuramente affidamento su di te, i tuoi commenti sempre puntuali su questi temi. Dopodiché non possiamo fare totalmente affidamento sul risparmio che riusciremo ad ottenere grazie al nostro investimento obbligato in mascherine in questo periodo. Quindi allora andiamo sul terreno consolidato che è a nostra disposizione, che è quello di affrontare i mercati finanziari anche in questi momenti di tempesta generale. E quindi oggi è giovedì, investire informati, torniamo un po' ad analizzare quello che sta accadendo attorno a noi, no? Perché, caro Mauro, essere risparmiatori e convivere con la pandemia da coronavirus è necessario in questo momento, ma magari proviamo a ragionare con i nostri ascoltatori su come è cambiata anche l'attitudine al risparmio, come è cambiato l'approccio al risparmio e all'investimento in questo momento. Sicuramente molti dei nostri ascoltatori, come noi tutti, sono stati investiti da paure e da pensieri hanno obbligato anche a ragionare in maniera diversa con il proprio consulente finanziario su come risparmiare oggi e in prospettiva. E quindi, siccome bisogna navigare in acque consapevoli sul tema dei mercati, stamattina abbiamo, come al solito, scomodato due esperte di valore mondiale per farci raccontare un po' qual è il loro punto di vista su quello che sta accadendo. Vuoi anticipare tu i nomi dei nostri ospiti? Ma volentieri. E allora, in rigoroso ordine alfabetico per cognome, come sempre, avremo ospiti Fabrizio Fiorini, vice direttore generale responsabile investimenti di UBI Pramerica SGR, e insieme a lui anche Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca Sistema, quindi un parterre ricco. E poi voglio dare anche questa anticipazione, oggi facciamo pure il domandone, dai, così non perdiamo proprio tutte le buone abitudini di Due di Denari. Allora, torneremo peraltro anche a distribuire i nostri pensieri, i nostri omaggi ai nostri ascoltatori non appena appunto la situazione avrà un minimo di normalità, un ritorno di normalità anche per noi. Attendiamo lo spiraglio. Nel frattempo segnatevi il numero verde, perché potete chiederci cose che riguardano naturalmente gli investimenti. L'investimento, vedo che già le mascherine hanno scaldato comunque il Davvero? WhatsApp. Sì, perché devo dire che questi 9 centesimi per singola mascherina, insomma, diciamo che non sono proprio così un regalo. Ripeto, non è colpa dell'Agenzia delle Entrate, però attenzione, perché è la norma che gli impone di far così. Allora, ricordo i numeri di telefono: 800 24 0024. Domande su mercati, come va, quanto durerà questa volatilità. Ho fatto pure una rima involontaria, chiedo scusa. Oppure abbiamo anche un numero per i vostri SMS o WhatsApp, anche vocali: 349 238 6666. E prima di tutto questo abbiamo, secondo me, ma vado sulla scaletta che mi ha preparato il prode Marco Lombardo, come solo sempre. A te l'ha preparata? Sì, l'ha preparata appositamente per me, amorevolmente per me, da remoto, perché adesso la scaletta mi dice che arriva il giornale radio del risparmio. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Ti prego Mauro, adoro la prima notizia di questa mattina, è fresca, freschissima, ma è imperdibile, secondo me non vedevo l'ora di raccontarla ai nostri ascoltatori, e che poi tra l'altro un pochino fa anche il paio con il tema che abbiamo affrontato ieri, no? La raccolta di prodotti agricoli, la mancanza di manodopera, di lavoratori stagionali e tutto quello che attiene appunto all'attività degli agricoltori in questa delicatissima fase. Che succede? Dillo tu, perché a me viene da ridere, allora, come si dice. No, però non dobbiamo ridere, perché invece dobbiamo considerare anche questa un'attività di tutto rispetto. Ci sono dei professionisti di questi settori, oltre che degli appassionati che magari vanno a caccia di lumache, così per hobby, no? Per passatempo. Allora, durante il lockdown sarà possibile uscire di casa per le cosiddette attività di raccolta a mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi. E quindi, se volete andare a raccogliere fragole, more, ma anche lumache, adesso lo potete fare, perché c'è una deroga ai divieti introdotti appunto dal decreto Covid, una deroga a questi divieti appunto che è stata introdotta da un emendamento di Fratelli d'Italia. Credo il primo firmatario appunto di questa iniziativa sia Monica Ciaburro, e questo emendamento è stato approvato all'unanimità dalla Camera. Quindi questa raccolta di more e lumache dovrà avvenire però nel solo comune di dimora e rispettando la normativa vigente, quindi niente assembramenti di raccoglitori di lumache e more. Ma se si tratta di un'attività individuale, la si può in questo momento svolgere in tranquillità, perché c'è la deroga ai provvedimenti. Ma scusa, se si può svolgere solo nel comune, è praticamente una raccolta in cortile, perché vabbè, comunque adesso non so, oggi mi sono svegliato un pochino così. Ti sento che sei un po', meno male, perché sennò questa figura la faccio sempre io. Oggi mi sento molto buona, niente, molto più buona del solito. Le mascherine mi hanno messo di malumore. Proseguo con un'altra notizia che non mi mette di buon umore, e penso non metterà di buon umore parecchi degli ascoltatori e delle ascoltatrici. ascoltatrici. Allora, confermato lo sciopero di 48 ore delle aree di servizio della viabilità autostradale e assimilabile all'autostradale, già fissato dalle 22 del prossimo 12 maggio fino alla stessa ora, alle 22 del 14 maggio. E motivazioni dello sciopero, perché appunto lamentano le sigle sindacali un'attività che per il suo carattere essenziale non ha potuto chiudere, alla quale non è stato neanche consentito di ridurre orari, applicare turnazioni, utilizzare almeno la cassa integrazione. Ebbene, a questo punto, avendo garantito il servizio sempre 7 ore su 7, 24 ore al giorno, per richiedere una maggiore attenzione da parte del governo, delle autorità competenti, dicono di essere messi finalmente nelle condizioni di beneficiare delle misure generali assunte in precedenza e ora soltanto annunciate. Ecco che scatta questo sciopero che, ripeto, è confermato dalle 22 del 12 maggio, quindi dalla sera del 12 maggio, sciopero il giorno 13, sciopero il giorno 14 fino alle ore 22 per le aree di servizio autostradali, viabilità autostradale e assimilabile, quindi le strade statali di maggiore percorrenza veloce. Prego Debora. No, guarda, prego niente, perché la prossima notizia, visto che l'ho tirata giù dalle pagine di Norme e Tributi, devi aiutarmi tu a spiegarle ai nostri ascoltatori, anche perché peraltro questo è un tema che a te è molto caro, visto che in passato ci hai sempre indotto, a noi della redazione di Due di Denari, appunto, di occuparci di lavoratori che lavorano appunto all'estero, gli impatriati, i rimpatriati, eccetera. E allora il Sole 24 Ore questa mattina si è interrogato sul fatto se anche a loro spetti o meno il famoso bonus da 100 euro nel caso in cui appartengano a quelle categorie di lavoratori che hanno dovuto mantenersi sul posto di lavoro fisico, cioè non hanno avuto l'opportunità di lavorare come me, per esempio, in questo periodo in smart working. Quindi Mauro prende i 100 euro, io no. E però tutti i lavoratori, appunto, che invece per un'azienda magari italiana lavorano all'estero, come ci si comporterà? E non c'è il premio, è molto semplice. La stessa circolare delle mascherine. Devi fare un altro editoriale? No, perché qui in questo caso c'era un problema. In realtà anche per le mascherine, insomma, c'era un problema normativo, cioè di forma della norma che impediva di interpretare diversamente. Allora, questa circolare 11E, che contiene tutta una serie di precisazioni, ha precisato appunto che il premio non spetta a quei lavoratori dipendenti che prestano l'attività lavorativa all'estero, anche se sono residenti in Italia, cioè non sono materialmente poi trasferiti e si sono segnalati nell'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Poi hanno dato altre precisazioni, le trovate appunto sulle pagine di Norme e Tributi oggi, le altre precisazioni che riguardano appunto come si arriva al limite reddituale dei 40.000 euro per avere o non avere più diritto, se si superano i 40.000 euro, a questi 100 euro, a questo bonus dei 100 euro. Non so se qualcuno vuole già dirci qualcosa sulle mascherine. In che senso? No, non lo so, perché vedo che c'è in scaletta il dillo a due di denari e quindi... Ah no, ma in realtà qua oggi abbiamo aperto il mondo sui nonni che si lamentano del fatto che... Sai che adesso si sta parlando di questo accordo con i comuni italiani per fare in modo che si possano aprire prossimamente i centri estivi e magari le materne anche per la fase estiva, per accogliere i bambini che non hanno più avuto l'opportunità nelle ultime settimane di frequentare i loro amichetti e quindi di andare a scuola. È un tema che a me è molto caro. Io non sono ancora una nonna, ma sono una zia, appunto, che ha in questo momento molto a cuore questo argomento, perché con tre nipotini che sono tutti a casa, ovviamente sappiamo quanto costa loro il fatto di non aver potuto più partecipare alle attività scolastiche. E allora, però, io sono una zia preoccupata, ma ci sono anche tante nonne e tanti nonni preoccupati per lo stesso aspetto. Allora, la prima che abbiamo voluto ascoltare è stata proprio nonna Lina. Sentiamo. Dillo a due di denari. Cara Rosciani e caro Meazza, avete notato che a livello ministeriale governativo nessuno raccomanda più il prolungamento di isolamento per gli anziani? Secondo me si sono accorti con sgomento che se i cittadini adulti tornano a lavorare, milioni di bambini piccoli e piccolissimi restano incustoditi e la soluzione non la stanno trovando. Il voucher babysitter non è per tutti e poi copre solo poche ore a fronte delle giornate e dei mesi che questa scopertura comporta. E allora ecco che i nonni, che stanno tutti nella categoria degli anziani, tornano alla ribalta e da abitanti anonimi della riserva, da vuoti a perdere, torniamo ad essere truppe d'assalto e forza lavoro a costo zero. E noi ci siamo, e i nostri nipoti vogliamo bene, e siamo affidabili, ma sarebbe una questione privata. Insomma, quanta ipocrisia e quanto cinismo sulla questione. E non ci si dica più che si preoccupano per noi perché siamo la quota di cittadini che rischia maggiormente. No, sono Lina, di anni 74, cittadina, donna e anche nonna. E nonna Lina ha fatto il suo editoriale pure questa mattina per noi, Mauro, che ne pensi? Nonna Lina, devo dire che insomma ha detto cose mi paiono molto condivisibili, perché effettivamente è vero, c'è stato un grande allarme, poi a un certo punto ci si è resi conto che si faceva fatica qua con la ripresa delle attività, ma le scuole che ancora non possono riprendere, e insomma gioco forza ancora chiamare in causa, rivolgersi ai nonni, chi ha disponibilità, ha la possibilità di farlo naturalmente. Per gli altri poi vedremo questo decreto maggio quanti altri bonus ci promette. Sai Deborah, oggi mi continuano a chiedere tutti come funziona questo extra bonus 110, forse 120%, sì, per i lavori di tipo diciamo ecologico. Ecco, posso dire quando una cosa? Lo vedremo in Gazzetta, che quando lo vedremo in Gazzetta lo racconteremo. Esatto. Come fai a sapere che volevo dire proprio questo? Che perché è proprio ti così. Conosco, mascherina, e quindi mi verrebbe proprio da utilizzare la canzone appunto dell'Istiba. Esatto così, cioè non c'è ancora niente, sono tutti annunci. Vediamo se venerdì, cioè domani, arriva questo decreto legge, questo decreto che era il decreto aprile, adesso decreto maggio, insomma con tutte queste misure annunciate, e vedremo, le leggeremo e ve le spiegheremo naturalmente molto volentieri. Ci sono già allora, i nostri ospiti, vuoi salutarli benissimo. Tu? Primo... Salutiamoli come si deve, però, con la cornice della trasmissione del giovedì. Ma ah, certo. Investire informati. Allora li saluto molto volentieri, naturalmente subito le nostre scuse a Fabrizio Fiorini, perché ovviamente ci portiamo dietro cariche vecchie che vanno un momentino aggiustate. Fabrizio Fiorini, grazie di essere con noi, responsabile investimenti e vice direttore generale di Pramerica SGR. Abbiamo messo una carica un pochino modificata prima, ma insomma spero che ci perdoni. Qua le trasmissioni sono sempre un po' la mattina convulse, perché ovviamente mettiamo nelle nostre scalette tutti i temi di attualità e qualche cosa ci sfugge. Fiorini, buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi. E buongiorno e grazie anche di essere tornato a trovarci. Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca Sistema, bentrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Deborah, da dove vogliamo cominciare? Perché guarda, già allora, ti posso dire sì, che parecchi ascoltatori, nonostante insomma le mascherine che ovviamente stanno scaldando gli animi, però chiedono, sì, ad esempio uno ha mandato ora, una ascoltatrice, chiedo scusa, Emanuela, ci chiede sì, prospettive dei tassi a medio-lungo termine e dell'inflazione sempre a medio-lungo termine, ovviamente per quello che si può prevedere oggi. Cosa bene, porterà questa non mi fa crisi? Piacere... Esatto, mi fa piacere che sia una donna a fare la domanda, perché ce n'era anche un'altra precedente sulla quale poi avrei voluto fare il mio personalissimo editoriale questa mattina, perché c'era questa ascoltatrice che voleva un commento su questo. Posso chiedervi di parlare degli ETF sul petrolio? Conviene investirci? In che modalità per persone come me che non seguono costantemente la borsa? Io, Silvia, guardi, le do subito la risposta su questo: stia lontano da questi strumenti. Se non segue il mercato, questo è proprio un settore dal quale stare lontano, sia utilizzando questo strumento ma sia proprio guardando al tema petrolio, che in questo momento ha delle dinamiche del tutto imprevedibili, per cui guardi, io le voglio bene e ci faccia questa cortesia di stare attenta ed accorta con il proprio risparmio, anche se volessi investire pochino su questi strumenti, ma in questo momento hanno dinamiche che non riusciamo assolutamente a controllare. Primo punto, poi magari sento anche Fiorini e Garbi su questo. Da cosa vogliamo partire, dicevi Mauro? Beh, io intanto chiederei ai nostri ospiti un commento generale su quello che vediamo sui mercati in questo momento, perché l'economia è paralizzata, non abbiamo mai visto probabilmente una situazione del genere, un blocco totale e simultaneo tra più paesi di ogni attività economico-produttiva. E le borse però in realtà stanno andando un po' per conto loro, perché abbiamo visto dalla seconda metà di febbraio a metà marzo un tracollo verticale di tutti gli indici, dopodiché hanno ricominciato a ripartire con grande forza. Quindi sarebbe interessante capire i punti di vista dei nostri ospiti su che cosa stanno puntando i mercati in questo momento. Io credo che vogliano proprio ripartire, vogliano la chiusura del lockdown e forse ce la stanno a loro modo anticipando. Che ne dici, Mauro? Partiamo da un commento su questo? Mi sembra che l'attualità sia il migliore spunto possibile. Cominciamo in ordine alfabetico per cognome? Fabrizio. Ottimo, Fiorini? Vai. Vada, Fiorini. Allora, guardate, io direi che il comportamento dei mercati azionari in particolare mi sembra corretto, nel senso che probabilmente quella a cui assisteremo è una delle recessioni più profonde ma anche più brevi della storia, se diamo per assodato che riusciamo a uscire dal problema coronavirus, quindi che il lockdown abbia un'efficacia. Oggi si critica tanto questo lockdown, c'è voglia di uscire, dobbiamo anche considerare che se per caso l'uscita la sbagliamo, al prossimo passo non riusciamo più a rialzarci, quindi è opportuno essere prudenti su questo, perché volere e potere sono due cose completamente diverse. Ma dato per, diciamo, scenario centrale il fatto che il lockdown funzioni e soprattutto possa funzionare la seconda fase con una grande attenzione alla distanza sociale e all'uso delle mascherine, ecco che allora quella che sarà effettivamente la recessione più profonda forse della storia potrà anche essere quella più veloce. Si tratta di una recessione molto diversa dal passato. In passato avevamo recessioni dove c'era distruzione di capacità produttiva. Questa invece è una recessione legata a uno stop della capacità produttiva e quindi sarà abbastanza facile ripartire, perché si tratta di riavviare la macchina. In passato, 2008-2009, ci fu una grande distruzione di capacità produttiva e occorreva ricostruire la capacità produttiva, la fiducia nel sistema finanziario, che allora era il problema e oggi invece è la soluzione. Quindi una recessione completamente diversa nelle, diciamo, modalità di esplicazione, nelle tempistiche, nelle dinamiche, e quindi la situazione non può essere comparabile. Io penso che il mercato abbia fatto un lavoro corretto di diciamo, correzione nel momento in cui il virus poteva sembrare invincibile, e giustamente di recupero quando si è capito che con determinate misure si poteva avere una prospettiva all'uscita del tunnel. Allora, Deborah, dottor Garbi, vi chiedo, facciamo un attimo l'aggiornamento sui mercati finanziari, così rientriamo poi subito con Gianluca Garbi e prendiamo spunto da queste considerazioni che ci ha sottoposto il vice direttore generale responsabile di investimenti di Pramerica SGR, Fabrizio Fiorini. Mi conforta soprattutto quell'aggettivo quando ha detto che è una recessione breve. Io ci voglio credere, come diceva la canzone, mi pare, di Biagio Antonacci. Intanto sentiamo come vanno le borse, Filippo. Sentiamo, amici di Radio 24, la borsa. Due di denari. E non la luna di neri, non conosce default. Si possono raccogliere anche i pipistrelli? Senza WTO. Ma secondo voi, in questo periodo, conviene più investire in banca o magari comprare un immobile? Grazie. È sempre la domanda delle domande, Mauro, ma io direi che è un po' come dire: compro o solo le pere o solo le mere. L'alimentazione va diversificata e quindi bisogna comporre anche sulla tavola, come dire, delle pietanze diverse, perché fa bene alla nostra salute. Quindi non si tratta di investire solo o in strumenti finanziari o solo in immobili. Bisognerebbe avere un giardinetto ben composto. Una dieta bilanciata, visto che qualcuno ci chiede, un'ascoltatrice chiede se può raccogliere il tarassaco, che è un'insalata, un'insalata penso anche di questa stagione. Non so quanto se ne intenda Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca Sistema, sicuramente si intende di mercati, quindi può estendere il discorso che stavamo facendo in precedenza, prima della interruzione per l'aggiornamento dei mercati finanziari. Garbi. No, di agricoltura mi intendo poco, quindi parliamo di mercati. Bene, allora siamo in due, guardi, in questa condizione. Io nemmeno di mercati, quindi mi spieghi. Beh, no, innanzitutto quello che è successo è assolutamente ragionevole nel momento in cui c'è uno shock inaspettato, imprevisto, che i mercati scendano, perché tutti portano un po' remi in barca, quindi c'è il cosiddetto effetto di fly to quality, si vende tutto quello che è il mercato azionario e ci si ritira mantenendo la liquidità per poi analizzare la situazione e riprendere, ed è quello che è successo. Quindi, analizzando poi la situazione, i mercati hanno incominciato a vedere nelle varie tipologie di aziende, quelle aziende che addirittura potrebbero beneficiare dall'attuale situazione e quelle che invece avranno degli impatti molto più significativi. In tal senso, quindi, le aziende che possono beneficiare e beneficiano da questa situazione sono aziende, ad esempio, nel settore delle pulizie, della sanificazione, dei rifiuti, piuttosto che il settore farmaceutico. Aziende che invece sicuramente avranno un impatto con una riduzione del fatturato che può andare dal 50 al 70%, riguarda il settore aereo, il cinema, il turismo o la ristorazione. Poi esistono altri settori in cui la caduta del loro fatturato, diciamo, ci sarà, ma è comunque più contenuta, e quindi alcuni settori che anche nel nostro paese sono importanti, come l'arredamento, la moda, la lavorazione dei metalli, l'edilizia e anche, come abbiamo anche sentito prima, il settore energetico, dei carburanti, le performance di Enel, d'altra parte, sono alla prova che ci potrà essere una contrazione del loro fatturato, ma che potrà andare complessivamente dal 10 al 20% e quindi tutto sommato essere più contenuta. Poi ci sono altre fasce, ad esempio l'automotive, le mense scolastiche, le fiere o i trasporti, la logistica, dove la riduzione fatturato andrà dal 30 al 50%, quindi una riduzione molto consistente, dove difficilmente ci potrà essere una ripresa. Quindi, evidenziato il problema, fatta un'analisi, i mercati sono ripartiti chiaramente in ordine a quelle che sono le aspettative. Sul mercato obbligazionario invece è un po' diverso, perché quello che questa crisi, che condivido essere molto probabilmente sarà una crisi breve rispetto a quelle del passato, ha portato ad un totale cambio di quelle che erano le prospettive in termini di inflazione e quindi anche di andamento dei tassi di interesse. I tassi di interesse rimarranno molto bassi per lungo tempo, l'inflazione, come abbiamo visto, è a zero, non siamo in una situazione di deflazione ancora, però non c'è una, in questo periodo non è pensabile a nessun tipo di ripresa. Sul mercato dei titoli di Stato, che chiaramente per i risparmiatori italiani, anche per faccio un assist a Meazza, anche per agevolazioni fiscali storiche che il nostro paese ha sempre voluto dare ai titoli di Stato, che tuttora sono tassati ad un livello di paradiso fiscale rispetto, sì, a tutte altre forme, sì, di investimento. Diciamo che il guadagno è al 12,50% in luogo del 26%, che è l'aliquota ordinaria, quindi effettivamente è uno sconto robusto, ecco, più di quello delle mascherine, per tornare a un tema che, come ha visto oggi, come ha sentito oggi, mi è particolarmente caro. Scusi che l'ho interrotta, prego. No, ci mancherebbe. Sul titoli di Stato, chiaramente la situazione è che il nostro paese arriverà a dei livelli di rapporto del debito sul prodotto interno lordo che record, quindi si stima intorno al 159%, per poi leggermente scendere nei prossimi anni. Questo dovrebbe nel lungo periodo essere una fonte di preoccupazione, perché con questo debito incomincia a raggiungere dei livelli dove la sostenibilità diventa un elemento cruciale. Ma nel breve tutto questo è chiaramente compensato dall'attività che sta facendo la Banca Centrale Europea di acquisto del debito pubblico. Pertanto anche quello che abbiamo visto la settimana scorsa, il downgrading delle agenzie di rating sul debito pubblico italiano, non hanno creato degli scossoni di movimento di differenziale di rendimento fra Italia e Germania. Tutto sommato è tutto passato abbastanza in modo ininfluente, perché abbiamo una Banca Centrale Europea che di fatto continua a comprare, compra il debito pubblico di tutti gli stati, compreso il nostro, in modo anche significativo, e pertanto mantiene un certo livello di stabilità nel breve periodo. Poi andremo a vedere da qui a 3-4 anni che cosa potrà essere fatto, perché a un certo punto il denominatore, quindi il prodotto interno lordo, deve poter salire in modo significativo per poter supportare la dimensione del debito. Per ridurre quel 150 qualcosa che temiamo. Insomma, chiaramente se allarghiamo, se aumenta il denominatore, il numero che sta sotto, ecco allora che il rapporto diventa anche più favorevole. Guarda, ma visto che stiamo parlando di queste cose, Deborah, ci ha chiamato Paola da Milano, la signora Paola, che proprio penso voglia parlare di titoli del debito italiano. Paola, buongiorno. Buongiorno a voi, vorrei farvi anzitutto molti complimenti. Grazie. Per la vostra trasmissione, non solo di oggi, è continua, diciamo. A me farebbe piacere sapere qualcosa di più su quei BTP di cui avete parlato settimana scorsa, Italia, che io ho già avuto e altri mi sono scaduti, per cui dovrei rinnovare qualcosa. Prima di andare in banca vorrei, per cortesia, se voi siete così gentili, di chiarirmi un momentino più i dati salienti, perché la banca, non so se lo posso dire in trasmissione pubblica, però non mi favorisce certo sui BTP, ecco, tutto qua. No, ma lei allora, può dire ciò che vuole, ci mancherebbe altro. Signora Paola, infatti, grazie alla telefonata. Ci ha dato un assist veramente incredibile. Allora sì, anticipiamo a Paola naturalmente che noi abbiamo in programma di fare due puntate esclusivamente dedicate a questo argomento, perché sta arrivando sul mercato un'operazione molto importante che noi abbiamo avuto proprio la possibilità di anticipare la settimana scorsa con il capo del debito pubblico italiano, il dottor Davide Iacovoni, e quindi sia lunedì prossimo che il 18, il giorno della partenza del collocamento, dedicheremo esclusivamente Due di Denari a questa operazione molto importante, perché questa è un'emissione molto speciale, interamente dedicata a finanziare l'extra deficit che si sta generando nel nostro paese per fronteggiare la pandemia e la emergenza economica che ne sta derivando. È un'operazione molto delicata, perché anche in questo caso è un'operazione interamente o quasi interamente dedicata, almeno nella prima fase del collocamento, ai piccoli risparmiatori come la nostra amica Paola, per cui è importante conoscere molto bene come funzionerà questa operazione. Per cui Paola, lunedì le spiegheremo tutto, e quindi è tutto il tempo di sentire bene quello che diciamo e poi di andare eventualmente a chiacchierare con il suo operatore in banca per capire se è il caso di insistere per sottoscrivere questo prodotto oppure non farlo. Per cui lunedì è tutta la puntata interamente dedicata a Paola e agli risparmiatori interessati a questo progetto. Detto questo, però, magari un commento a Fiorini e Garbi possiamo farlo fare su tutto questo. Peraltro è una settimana molto delicata. Sono settimane molto delicate per i titoli italiani, perché lo dicevamo prima con Garbi, a parte il fatto che arriva Moody's domani, quindi l'ennesimo giudizio sul debito sovrano italiano, ma poi settimana scorsa è arrivato il famoso sgambetto di Fitch che ci ha declassato così a sorpresa. E quindi Fiorini, come dire, un po' il presupposto di questo lancio, di questa operazione il 18 maggio è abbastanza delicato. Vi chiedo voi operatori professionali cosa pensate di questo contesto. Direi che di sgambetto effettivamente a parte di Fitch si tratta. Io onestamente non sono sorpreso, Fitch aveva dichiarato qual è il suo modus operandi. Loro valutano l'ammontare di debito rispetto al PIL, quindi da questo punto di vista il loro giudizio ci sta. Io a questo punto però mi aspetto coerenza rispetto al giudizio degli altri paesi, perché l'Italia si avvicinerà ad avere un debito PIL intorno al 100-165% nel 2020, causa aumento del debito da un lato e diminuzione del PIL dall'altro. Ma se scenderemo già al 155 nel 2021, ma noi siamo in una situazione in cui la sostenibilità del nostro debito è sicuramente molto più solida oggi, paradossalmente, di alcuni anni fa. Il costo del debito sta diminuendo di anno in anno, anche per il fatto che una parte del debito è detenuta alla BCE e su quello noi non paghiamo interessi. Quindi oggi l'Italia è in una situazione tale per cui, nonostante questo atteso forte incremento del debito, per stabilizzare il rapporto debito-PIL noi abbiamo bisogno di un avanzo primario che passa dal 2% con cui abbiamo chiuso il 2019 al 2,3%, quindi una manovra estremamente contenuta e facendo delle ipotesi estremamente prudenziali, cioè una crescita comunque bassa, un'inflazione comunque bassa, e basterebbe un po' più di crescita e o un po' più di inflazione e noi saremmo in grado, a parità diciamo di deficit, di avere addirittura un contenimento del debito PIL nel medio-lungo termine. Non possiamo dire la stessa cosa degli Stati Uniti, viaggiano a un deficit di 17% all'anno e se non dovessero fare niente fra 3 anni ci ritroveremo ad avere un debito come il nostro. A questo punto mi aspetto di vedere che se Fitch usa lo stesso metro, come si dice per gli arbitri, alcuni sono severi, alcuni no, basta che usino lo stesso metro. sarei curioso di vedere quando Fitch downgraderà il debito americano. Cosa succederà? È che chiediamo... con l'Italia è più facile farlo. Certo, vi fermo Fiorini perché adesso è il momento del traffico, vi chiederemo una VAR anche per le agenzie di rating. Traffico! Due di denari. Allora, facciamo un domandone, Deborah. Torniamo un pochino, proviamo a reintrodurre qualche abitudine del mondo di prima, per così dire, il mondo prima del Covid. Allora, vogliamo sapere, non sappiamo ancora che cosa riusciremo a inviarvi, quali limitazioni avremo, ma qualche cosa, insomma un regalo comunque riusciremo a farvelo. Qual è il rendimento attuale del BTP decennale italiano? È una bella percentuale tonda, così vi aiuto un pochino. Rendimento attuale del BTP decennale italiano. E così in qualche modo abbiamo chiuso il cerchio sulla questione del debito pubblico, Deborah, ti pare? Esattamente. Io, a parte che l'ho detto prima nel collegamento di Borsa delle 11.30, e anche se non diamo esattamente quella percentuale lì, possiamo indicare la soglia attorno alla quale questo rendimento si sta muovendo in questo momento. Allora, volevo tornare un attimo, se mi consenti Mauro, a Gianluca Garbi, perché lui, anche per la sua esperienza pregressa, prima no, non prima del Covid, ma prima di Banca Sistema, ha acquisito nel corso della sua attività professionale una larghissima competenza nel mercato obbligazionario. Oggi invece con Banca Sistema è uno specialista praticamente dei crediti cartolarizzati, quindi il tema del debito lo conosce molto bene. Gli volevo chiedere proprio se ci poteva fare un piccolo ABC per il piccolo risparmiatore verso il settore obbligazionario. Come ci si deve comportare? Cosa si deve sapere in questa fase, a parte l'entità del debito pubblico italiano che sta di nuovo lievitando per le ragioni che conosciamo, ma mettendoci nella testa di un piccolo risparmiatore che sente parlare di emissioni in arrivo, di tante aste continuamente, di questa nuova emissione straordinaria per lunedì 18, cosa bisogna fare adesso? Quali comparti privilegiare? Come organizzare un giardinetto ben composto, visto che abbiamo parlato prima di dieta equilibrata? Cosa dobbiamo mangiare nel piatto del mercato obbligazionario e come? Il rendimento Garbi. Che danno i titoli di Stato, specialmente quelli italiani, è un rendimento eccezionale, particolarmente elevato, derivante anche dalla situazione patologica, se vogliamo, quasi patologica, che c'è un po' del nostro debito pubblico, della nostra dimensione di debito pubblico. Quindi io, risparmiatori, direi che comprare titoli di Stato italiano, pur all'interno però di durate non troppo lunghe, di non farsi magari allettare da rendimenti molto elevati su BTP a 30 anni, perché BTP a 30, da qui a 30 anni di cose ne possono succedere tante, e di conseguenza non è forse il migliore investimento per un risparmiatore che non vuole occuparsi o non ha magari tutte le competenze per stare a guardare tutti i giorni quello che succede sul mercato, comprare, vendere titoli, anche titoli di Stato sul mercato. Quindi se uno vuole comunque allocare una parte del proprio portafoglio in debito pubblico fino a 5 anni, secondo me può stare tranquillo. Devo dire che la Banca Centrale Europea ha anche neutralizzato gli effetti delle agenzie di rating, che come se sapessero in anticipo quello che avrebbe fatto Fitch, in una nottata hanno detto che anche il non investment grade, quindi anche qualora i titoli di Stato dei vari paesi dovessero essere dichiarati come spazzatura, loro continueranno a comprarli. Quindi questo tiene un po' tutti tranquilli da questi impatti delle agenzie di rating, che sono comunque soggetti privati con un impatto molto forte sulla pubblica amministrazione. Io non andrei poi sul mercato obbligazionario oggi su scadenze troppo lunghe, e quello che succederà è molto difficile, quindi non solo i titoli di Stato, anche sulle altre obbligazioni. Sulle obbligazioni private valgono i ragionamenti che ho fatto prima sul comparto, perché il comparto delle aziende, a seconda di dove si collocano le aziende, chiaramente cambia totalmente il rischio, quindi si mettono insieme due rischi, uno quello dell'azienda, l'altro il rischio dei tassi di mercato. Allora, per quanto riguarda i tassi, se si rimane in quell'ambito dei 5 anni si è comunque tutelati. Per quanto riguarda le aziende, valgono i ragionamenti fatti prima sul mercato azionario. Da questa situazione ci saranno aziende che avranno degli impatti molto molto negativi, dove alcune purtroppo non riusciranno a riprendersi, e altre aziende che addirittura potrebbero avere degli impatti positivi oppure leggermente negativi, ma per i quali non c'è una forte preoccupazione. Quindi una allocazione sul mercato del reddito fisso, sia privato che pubblico, è importante. Non dimentichiamo che c'è l'altro strumento molto simile, che sono i conti di deposito, dove la tassazione è più elevata, ma c'è fino a 100.000 euro la garanzia del fondo di tutela dei depositi. Certo. E di conseguenza questi sono quelli che forse agli investitori meno che vogliono occuparsi meno del loro investimento una volta fatto, li lasciano più tranquilli, perché i titoli di Stato, come tutte le obbligazioni, cambiano prezzo ogni giorno. I conti di deposito rimangono lì, non c'è una differenza di prezzo, alla scadenza ritornano i soldi con gli interessi, e quindi non mi viene il patema d'animo di vedere delle fluttuazioni, di allarmarmi perché oggi ho perso un pezzo del valore, anche certo, sapendo che quella perdita è solo teorica. Ecco Deborah, devo io invece fare una precisazione, perché nel fare il domandone non ho ricordato la regola aurea, che è vero che è sempre quella, però sai che purtroppo c'è stato qualche cambiamento, nel senso, si è sentito dire una pandemiuccia in giro. Ecco, allora molti potrebbero essersi scordati. Noi, per dare il premio del domandone, accettiamo solo risposte all'800 24 00 24. Quindi dovete chiamare il numero verde, già in molti stanno cercando di farlo, si stanno prenotando. Ripeto allora il domandone, scusandomi per non avere detto prima questa regola, non aver ricordato prima la regola. Vogliamo sapere qual è il rendimento attuale del BTP decennale italiano. Grazie a Filippo Aureggi che sottolinea con l'adeguata base musicale. Prego Deborah. Bene. Fabrizio Fiorini, volevo ritornare con lei a commentare un altro tema di attualità che sta ritornando prepotentemente alla ribalta della cronaca, e non utilizzo il termine prepotentemente a caso. Pensavamo all'inizio di gennaio di avere archiviato la parentesi del contenzioso commerciale fra Stati Uniti e Cina. Si sono messe d'accordo le due superpotenze sui dazi e il mercato su questa prospettiva si è tranquillato. Poi è arrivata la pandemia, ovviamente la Cina è considerata la grande responsabile di questa tragedia mondiale, e Trump non ci ha pensato due volte ad attribuire con grande chiarezza la responsabilità alla Cina di tutto questo, e soprattutto è tornata a minacciare delle ritorsioni commerciali importanti. Dobbiamo riaprire la parentesi dei dazi, come se non ci bastassero già le preoccupazioni. Adesso i risparmiatori che investono sui mercati internazionali, perché bravi, così come noi abbiamo suggerito, diversificano per proteggere il loro investimento, e adesso devono cominciare a rivedere le montagne russe a causa di questo tema. Come state valutando questa prospettiva voi gestori professionali? Allora, chiaramente questo è stato un elemento a sorpresa. Io non penso sia in grado di generare le stesse montagne russe che generò un paio di anni fa, per una ragione molto semplice: è chiaramente un presidente depotenziato dall'avvicinarsi delle elezioni, dalla situazione politica interna. È chiaramente da parte di tutti evidente che si tratta di un modo per distogliere l'attenzione da una problematica interna di rallentamento che può danneggiare, e quindi o esistono effettivamente le prove, e allora la cosa prescinde una volontà di Trump, ma rappresenta un fatto e un pericolo reale. Altrimenti penso che via via che passa il tempo questa situazione è destinata a scemare. E consideriamo che è a 6 mesi dalle elezioni, quindi praticamente fra un mese circa, la sua anche possibilità di agire attraverso decisioni sarà fortemente ridimensionata dal fatto che il Parlamento americano non potrà prendere determinate decisioni, anche la sua abilità di firmare provvedimenti sarà limitata dall'avvicinarsi delle elezioni stesse. Quindi io penso che sia sicuramente un elemento di disturbo inopportuno, ma chiaramente classificabile come un'azione, diciamo, diversiva, con meno potenzialità, depotenziata da quello che sta succedendo in America e dalla sua vicinanza alle elezioni. Quindi non è un elemento in grado di preoccupare gli investitori, secondo me, in questo momento. Certo. Allora Mauro, hai qualche risposta al domandone? Ne ho diverse, sì, si è prenotata con una rapidità, devo dire, fulminea. Mm-hmm. Giuliana che ci chiama da Asti. Allora Giuliana, buongiorno, benvenuta a Due di Denari. Buongiorno. Buongiorno. Tutte donne stamattina, 2%. Bene. 2% e dice bene. Dice bene. Perché? No, va bene, perché ha messo la sigla che bocciava la risposta dell'ascoltatrice? No, qua la regia oggi si è un po' confusa. No, è perché voleva esattamente il rendimento annuo, la cedola annuale, eccetera, eccetera. Sai che Filippo Oreggi... Io avevo detto prima l'1,9% perché stamattina è un po' sceso, ma comunque siamo attorno al 2, va benissimo questa percentuale. Speriamo adesso che non ci smentiscano i nostri ospiti, Mauro, ecco. No, penso ma, che anche Fiorini, Fabrizio Fiorini e Gianluca Garbi siano d'accordo. Fiorini, sì. È un fatto questo, non è che... È un fatto, ecco, benissimo. Esatto, non è una considerazione. Senti, faccio l'ultima domanda telegrafica a Gianluca Garbi con la promessa di reinvitarlo per parlare bene di questo argomento che è molto delicato. Volevo parlare del credito su pegno. Garbi, in 30 secondi, pare che migliaia di italiani si stiano rivolgendo ai banchi di pegno. Voi avete attrezzato proprio un'iniziativa speciale con la vostra banca e quindi vorrei che ci raccontate un po' come state monitorando questo fenomeno e poi naturalmente la promessa è di ritornare a parlarne con molta attenzione perché è un tema estremamente delicato. Ci può anticipare qualcosa? Abbiamo 30 secondi prima della chiusura. Guardi, il pegno è nato per volontà della Chiesa Cattolica nei periodi di crisi del Medioevo e per la peste. Oggi abbiamo un'altra peste che si chiama Covid-19. È una forma di finanziamento per evitare che le persone vadano dagli usurai alla malavita. E quello è quello che sta succedendo. Noi abbiamo la nostra attività, stiamo comprando quella di Banca Intesa, vediamo una marea di persone che hanno esigenze immediate e che si rivolgono al Monte di Pietà per avere 1000 euro, 100 euro, 200 euro. Quindi la nostra controllata Pronto Pegno in questo momento è sempre rimasta attiva, come anche tutte le altre Monte di Pietà che, se guardiamo la storia, sono proprio serviti in periodi come questi. Grazie ai nostri ospiti Fabrizio Fiorini, vice direttore generale responsabile investimenti di Pramerica SGR, Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca Sistema e Deborah, noi torniamo domani, quindi non partire torniamo per Marte quest'oggi, questo pomeriggio, mi raccomando. No, vediamo nel pomeriggio, vediamo, ci penserò, a domani.